Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 con una nuova puntata di Personal Best, il corso di corsa alla radio. Al mio fianco, come tutte le domeniche, Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno a tutti. Ivana, allora, in questi mesi insieme su Radio 24 abbiamo parlato praticamente di tutte le declinazioni della corsa. C'è un lato però, come ci siamo detti più volte tra di noi, che ci piace tantissimo ed è quello solidale, quello della corsa che diventa un gesto benefico, come una giornata di divertimento che in qualche modo si traduce in un'azione solidale. Ci sono tante onlus che si occupano attivamente di questo e una di queste che prendiamo un po' anche in rappresentanza di tutte le altre è Disabili No Limits, fondata nel 2011 da Giusy Versace, che oggi è al telefono con noi. Ciao Giusy e benvenuta a Radio 24. Ciao, grazie. Allora Giusy, tu sei protagonista di una storia incredibile, da cui ne sei uscita con una grande forza, la stessa forza che poi sei riuscita a mettere in tutte le cose che hai fatto, una delle quali è proprio Disabili No Limits. Un incidente che ha stravolto completamente la mia vita, perché avevo 28 anni ed ero nel pieno della mia crescita personale e professionale. E mi sono trovata catapultata in quello che io amo definire il popolo degli invalidi. A parte lo shock iniziale, chiaramente il dolore che non sto qui a raccontare, però mi piace sempre raccontare tutte le cose belle che io ho tirato fuori dietro questa grande tragedia. E la nascita della Onlus serve anche a me per dare un senso a quello che è successo, perché aiutare gli altri mi fa sentire una persona migliore. Noi organizziamo eventi in giro per l'Italia, a volte anche all'estero, per promuovere lo sport come terapia e mezzo di integrazione, perché siamo nel 2017 ma molti disabili ancora non escono di casa, un po' per vergogna, un po' per ignoranza da parte delle famiglie. Lo sport sicuramente aiuta anche a confrontarsi, ad alzare l'asticella e a sentirsi migliori. Purtroppo lo Stato oggi non copre ausili evoluti, quindi la mia onlus non fa altro che, al di là della promozione, raccogliere fondi per regalare questa opportunità a chi non se la può permettere. E voi per questo infatti sarete anche alla Maratona di Venezia? Saremo presenti alla Maratona di Venezia, io sarò madrina insieme ad Alex Zanardi e nel programma Charity ci sono, come hai detto bene tu, tante onlus, tra cui anche la mia. Ci sono un discreto gruppo di runners che si è attivato e correrà con la maglia della mia onlus e mi stanno aiutando a raccogliere fondi. E mi piace un po' quest'idea, no, che chi ha le gambe possa prestarle a chi non ce le ha o non le può usare. Bellissimo. Fantastico. Invitiamo davvero tutti a prestare le gambe a chi non ce le ha o non le può usare e aiutarci a raccogliere fondi per regalare tanti sorrisi e nuove opportunità di vita. E la tua storia con la corsa è veramente dell'incredibile. Tu hai iniziato a correre però dopo l'incidente, vero? Prima non correvi. Esatto. Il paradosso è che ho iniziato ad amare la corsa quando ho perso le gambe. Questo è un po' un paradosso. Però io prima ero una sportiva come tanti, sai, mi piaceva fare spinning, giocare a tennis, tante cose che non posso più fare. Dopo l'incidente ho scoperto che era importante dare valore alle tante cose che ancora potevo fare senza piangere per quello che non potevo fare più. E poi ho scoperto che esistevano queste lingue in carbonio. Io sono poi una curiosa, una che ama le sfide, ho iniziato a correre banalmente per questo motivo. Solo che poi è come, ragazzi, una droga positiva. Io ci ho preso gusto, non mi sono più fermata. Chiaramente non mi aspettavo né di vincere due medaglie agli europei come è stato l'anno scorso, di correre a una finale alle Paralimpiadi di Rio. Io mi emoziono tutte le volte che rivedo i video, perché non mi sembra possibile che l'abbia fatta proprio io questa cosa qua, capito? Raccontaci un po' la tua specialità. Ma io sono una velocista, sono primatista dei 100, 200 e 400 metri, quindi non corro il mezzo fondo, alle maratone piuttosto che alle cittadine non corro per strada, ecco. Ho un piede per farlo, c'è un piede da jogging, esiste, però non mi sono allenata per quello e quindi invito gli altri a farlo per me e per tutte le altre persone che hanno una disabilità e non lo possono fare, possono però godere dell'opportunità di provare, ecco, perché questi piedi aiutano sicuramente ad avere una vita migliore, però sono costosi, lo Stato non li copre, quindi insomma finché non ci arrivano loro, le piccole onlus come la mia provano a farlo, insomma, a regalare questa opportunità. E adesso stai correndo, stai preparando qualcosa, Giusy? Allora, guarda, in realtà corro perché i ritmi di Milano mi impongono di correre, incastro sempre tante cose, sono una che trova il modo di non annoiarsi. Mi sto allenando, non per qualche gara in particolare, perché dopo le Olimpiadi mi sono presa un anno sabbatico, però sto lavorando su un nuovo progetto teatrale, peraltro prossimamente saremo a Roma e oggi mi hanno confermato che il 3 novembre portiamo il mio spettacolo teatrale a Venezia, al Teatro Toniolo di Mestre, ed è la mia storia, quella che io ho scritto in un libro, trasformata in prosa, musica e danza, e io sono su un palcoscenico che mi racconto e racconto il dolore, ma tutte le cose belle che ho tirato fuori e quanto lo sport mi ha aiutato anche a, come dire, ma non voglio dire a vincere, perché insomma, come dice mia madre, io ho già vinto il giorno in cui mi sono alzata dalla sedia a rotelle, però sicuramente ha fatto tanto, e l'incasso di queste serate sarà devoluto alla Onlus, quindi insomma io vi aspetto sicuramente il 21 e il 22 a Venezia. E poi, perché no, magari anche il 3 a Mestre, se vi va di venirmi a vedere a teatro. Grazie Giusy, grazie. Grazie ragazzi, a presto. Allora Ivana, abbiamo lasciato Giusy Versace e continuiamo a parlare di corsa con il presidente della Venice Marathon, Piero Rosa. Salva, benvenuto a Personal Best. Grazie a voi e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, ci siamo, diciamo che dopo un anno di attesa, domenica prossima sarà nuovamente tempo di Venice Marathon. Che edizione sarà quella di quest'anno e quali sono le novità? Beh, Venice Marathon è arrivata alla 32esima edizione, quindi ormai è un evento maturo, un evento importante che ha una sua collocazione nel vasto panorama delle maratone italiane e mondiali. Come è noto è una gara olimpica sulla distanza classica, parte dalla città di Stra, vicino a Padova, costeggia tutto il fiume Brenta in un bellissimo percorso lungo costeggiato dalle ville venete e poi attraversa il centro dei Marghera e Mestre, quindi tutta la zona industriale moderna del comune di Venezia, per poi avvicinarsi attraverso il Parco di San Giuliano e il Ponte della Libertà, che è il cordone ombelicale che collega la terraferma alla nostra bella Venezia, dove si percorrono gli ultimi 2 chilometri in un percorso affascinante lungo le rive delle Zattere e degli Schiavoni, con l'attraversamento anche di Piazza San Marco. L'arrivo è posto vicino ai giardini della Biennale, conosciuti in tutto il mondo, e quindi indubbiamente uno scenario che ha contribuito molto al successo. Noi abbiamo il numero chiuso a 8.000 partecipanti da molti anni, perché abbiamo dei problemi poi di capienza, dei servizi logistici nella zona d'arrivo e anche nella zona di partenza. Da alcuni anni abbiamo abbinato alla maratona una 10 km, che sono gli ultimi 10 km del percorso, che anch'essa ha avuto molto successo e siamo verso i 6.000 partecipanti. Voi siete molto attenti, no, all'analisi dei dati, quindi. E c'è stato un aumento del pubblico femminile? Allora, assolutamente sì. Venice Marathon è la punta dell'iceberg di un movimento molto ricco. Nel Veneto, tra l'altro, l'atletica e la corsa hanno delle tradizioni importanti. Ricordiamoci che Pizzolato, vincitore di New York, Bordin, vincitore delle Olimpiadi di Boston. Abbiamo un passato importante nella corsa e nella maratona. E per quanto riguarda i numeri, devo dire che è un movimento in crescita sia nella distanza classica che anche nelle ultramaratone e anche nelle gare più corte. In questo contesto, la crescita femminile è straordinariamente rilevante, specialmente molto significativa anche socialmente, perché riguarda una fascia di età anche avanzata, quindi abbiamo un boom di donne over 40 che evidentemente una volta sistemata la famiglia e magari i figli che crescono e quant'altro riesce a riscoprire uno spazio personale privato che è molto importante. Poi ricordiamoci che la corsa è anche una disciplina di protezione e di aggregazione. Vorrei segnalare il fenomeno delle corse assistite, cioè noi abbiamo avuto nel passato dei problemi per cui per esempio le donne avevano delle grosse perplessità ad andare a allenarsi da sole la sera, in correre nelle città o nelle sicurezza. Allora nascono, e allora già molti anni fa, delle iniziative nelle quali le società sportive, con l'aiuto delle forze dell'ordine, cito nel Veneto l'esempio straordinario delle Fiamme Oro a Padova, che il giovedì da moltissimi anni organizzano questa cosa, e degli allenamenti assistiti, cioè dei raduni spontanei che oggi con i social possono essere organizzati rapidamente, nei quali ci si raduna e dove si può andare a correre in totale sicurezza, appunto accompagnati e assistiti anche dalle forze dell'ordine. E questo ovviamente ha favorito in particolare la pratica femminile. La Venice Marathon è nata 32 anni fa, quando il running, possiamo dire, non aveva tutto questo successo. Che ricordo hai dei primi anni della Venice Marathon? Ma io ero all'epoca presidente della Federazione di Atletica del Veneto, ero dirigente nazionale di atletica del CONI ed ero appassionato già di sport. Cioè io in realtà non ho mai corso in vita mia, facevo salto in alto precisamente, però mi affascinava questo mondo. Quando è nata appunto il fenomeno del maratone e quando Pizzolato ha cominciato a vincere New York nell'84-85, e con un gruppo di amici abbiamo pensato che ci voleva una grande maratona italiana. All'epoca c'erano grandi campioni e non c'erano maratone, al contrario di adesso dove ci sono tante gare importanti, ma purtroppo ci sono pochi risultati per l'atletica italiana. A memoria, quanti erano gli iscritti della prima edizione? No, la memoria ce l'abbiamo buona perché abbiamo visto pochi giorni fa proprio i dati. Sono stati 782 gli arrivati, quindi un decimo di adesso. Okay, una bella evoluzione, insomma. 30 anni sono una bella storia, un lungo percorso di successo che ci arricchisce sempre di entusiasmo. Grazie a Piero Rosso Salva. Grazie, a presto. A presto. Ivana, anche per oggi è tutto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo email per i vostri commenti e le vostre domande: personalbest@radio24.it. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.